L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Adesso ragazzi, che con la vittoria di Trump alle elezioni americane la borsa possa perdere il 5%, a me che cazzo me ne frega. Forza Donald, forza Donald, e vai! Io ripeto, caro Parenzo, non succede, non succede, non succede perché non succede. Speriamo, speriamo. Ma se succede, sono guai per tutti. Se succede, amico sono mio, sono guai per tutti. Se succede, cioè, Donaldone, giornalisticamente Donaldone si può divertire, mio, ma Donaldone, tutto a scatafascio. Ma che tutto a scatafascio? Vai, ma glielo spiegare agli imprenditori, ma vuole creare il protezionismo. Ma quando mai? Dazi, costruire muri. Io ripeto, cioè, ci si ragazzi, può divertire giornalisticamente. Ragazzi, ma è una disgrazia. Io non dico niente, io dico solo, non succede, non succede. Ma se succede, se succede è un problema per tante imprese. Da mercoledì sentirete un'altra zanzara. Sentirete un'altra. Non succede, ma se succede, Donaldone mio, no, però, Donaldone perché... mio, se succede. Ragazzi, comunque è tutto finito, eh? È tutto finito. Allora, un mio amico avvocato mi ha mandato questa scritta, questo cartello presente nei bagni del Tribunale di Roma. Caro Parenzo, è tutto finito. Non c'è sesso, non credere. Non c'è sesso, non è che per forza uno deve parlare di sesso, no, cioè non è obbligatorio. Solo quando ci viene in testa, solo quando mi viene soprattutto nella mia testa e solo quando accade naturalmente. Allora, Tribunale Ordinario di Roma, Piazzale Clodio, Roma. Si comunica che è terminata la scorta in magazzino della carta igienica per rifornire i bagni del Tribunale. Siamo in attesa di nuova assegnazione da parte della Corte di Appello di Roma. Ora io dico, amico mio, i tribunali italiani sono in attesa della carta igienica per i cessi. Cioè, se uno in tribunale, il Tribunale di Roma è uno dei tribunali più affollati, no? Ci sarà gente che ha bisogno di andare in bagno. Come cazzo fanno questi qua? C'è la gente che è costretta ad andare in tribunale, eccetera, eccetera. Non può andare al cesso perché non c'è la carta igienica. Sono belle anche le scritte sotto, Parenzo, no? Anche un appendiabiti, perché pare non ci sono nemmeno gli appendiabiti. Così non oriniamo sulle giacche e anche sui cappotti, ragazzi. Come stiamo messi? Come stiamo messi? Io dico poi, no? Hai letto quella storia di quel forestale impermesso per gravi motivi familiari, sì, che in realtà era a Miami sì, a girare sì, film porno, no? Ora io dico, fai il forestale in Lucania. Io dico, fai il forestale. Io dico solo questo. Fai la guardia forestale in Lucania. In Lucania. Io penso che sei un privilegiato nella vita, no? Un minimo. Rispetto ad altri che magari non hanno lavoro. Certo, non rispetto a noi, no. Ma rispetto ad altri sei privilegiato. Cosa fai, amico mio, per gravi motivi familiari vai a girare un film porno a Miami? Ma la guardia forestale già è un miracolo, già dovrebbero essere, adesso dico una cosa forte come al solito, abolite le guardie forestali, bastano le cose che abbiamo, però. Bastano le cose che abbiamo, ne basta, ce ne vorrebbero molte meno di guardie forestali. Tu sei guardia forestale in Lucania, cioè hai avuto questa cosa, non so per quali motivi, non voglio nemmeno indagare, ma che fai, te prendi il permesso per gravi motivi familiari e vai a girare un film porno? Per carità, sei il numero uno, ti si dovrebbe fare una statua, perché evidentemente l'hai fatta franca, poi... Hai mandato su WhatsApp delle cose e ti hanno riconosciuto. Però, amico mio, dai, su. Paese finito. pare che in una via a Catania abbiano chiuso i negozi, abbiano chiuso i negozi per ordine di alcuni boss perché è morto il nipote di un mafioso. Dai, su, dai. Comunque, signori miei, la notizia è questa, ve la do alle 18.39. Ha suscitato grande scandalo, l'abbiamo parlato anche ieri, quello che è successo a Radio Maria. Radio Maria, c'è, che abbiamo saputo oggi che riceve soldi, ha ricevuto e riceve ancora soldi da parte dello Stato. Per una legge strana, eccetera. Ha ricevuto negli anni una marea di soldi da parte dello Stato. Male. E nonostante riceva soldi da parte dello Stato direttamente, come Radio Padania, praticamente a braccetto andavano Radio Padania e Radio Maria. Radio Maria si è permessa di dire, attraverso la voce di un signore, di un prete, si è permessa di dire, come sapete, che il terremoto è provocato dalle unioni civili, in sostanza, cioè dai peccati dell'uomo. E siccome tra i peccati dell'uomo ci sono le unioni civili, e allora il terremoto, c'è la gente che sta lì, distrutta, con le, che ha perso le proprie cose, in alcuni casi ha perso i propri averi, i propri familiari. C'è una radio, Radio Maria, Radio Maria, persino il Vaticano oggi, Parenzo, cosa ha detto il Vaticano? Dimmelo tu che oggi hai studiato, cosa ha detto il Vaticano? Ha bacchettato Radio Maria dicendo che la radio ha usato parole offensive e scandalose, questo ha detto il Vaticano. Il Vaticano. Allora io dico, ragazzi miei, nessuno... Le scuse di Radio Maria sono vergognose, perché dicono che quello è un collaboratore, quel padre. Perché non è padre Fanzaga, eh? È un altro signore. È come dire, no? Ci scusiamo, ma non siamo noi, è un collaboratore. Che cazzo vuol dire? Cioè, se lo fai parlare alla radio, non era un ospite. Cioè, era, credo, uno che aveva uno spazio suo. Uno a Borderò, direbbero quelli. Un collaboratore, uno che è pagato Borderò, da lì. Usiamo il termine a Borderò. Ma no, ma non lo capisci, più... la gente non lo capisce. Capiscono tutto, e studiano ogni tanto. Googlano Borderò. Cosa vuol dire? Dirà Lores. Cosa ha detto? Ma non capisco. Borderò. Allora, questo Borderò. Tizio si chiama padre Giovanni Cavalcoli. Docente. Calcoli renali. No, docente. Cavalcoli, docente calcoli. Emerito di teologia dogmatica. Cioè, capito? Uno poi dice dogmatica. I docenti. Allora, vi anticipiamo una cosa, signori miei. Questo signore, padre Giovanni Cavalcoli, lo abbiamo sentito. Sentirete tutto più avanti. Una telefonata surreale. Questo signore, gli abbiamo fatto risentire le sue parole e ha detto: sì, è vero, confermo tutto. I terremoti sono provocati dai peccati dell'uomo e le unioni civili sono un peccato dell'uomo, sono qualcosa contro natura. Non devo chiedere scusa a nessuno. Quando gli abbiamo detto, quando Parenzo gli ha detto: ma scusi, amico mio, il Vaticano ha preso le distanze, no? Il Papa che dice? Certo. Il Papa la pensa come me, il Vaticano ripassassero il catechismo. Cioè, è scritto nel catechismo, bisogna ripassare il catechismo. Cioè, questo tizio conferma tutto. Adinolf, si è espresso anche Adinolf. Ci mancava. Adinolf. Ma c'è la verità di mezzo c'è la verità. E la verità è che le frasi pronunciate e di cui ha accusato Radio Maria, Padre Livio, non sono state mai pronunciate da Padre Livio, che non era in diretta quel giorno, e facciamolo sapere al mondo che è stato costruito un vergognoso scandalo falso sul nulla. Sì, ragazzi, amico mio, però Adinolfi, non ce ne frega un cazzo che non è stato padre Livio Fanzaga. Qualcuno amico. Ha sbagliato, perché non è che conosciamo gli speaker di Radio Maria o chi parla a Radio Maria. È stato pronunciato da un signore che è un collaboratore e dunque un, come dire, un organico. Adesso lasciamo perdere i tecnicismi. E sono state pronunciate a Radio Maria. Tra l'altro non è nemmeno la prima volta. Inutile che dicono no, ci dissociamo. Non è la prima volta. Già una volta era successo con un ricercatore del CNR. Non mi ricordo, che aveva detto esattamente la stessa cosa. Cioè, i terremoti provocati dai peccati dell'uomo. E dunque, tra i peccati dell'uomo c'è anche l'omosessualità. Questo è il punto fondamentale. Fanzaga, sentiamo. So benissimo che il terremoto è un fatto naturale, però la Madonna ha anche detto che con la preghiera e il digiuno, ha detto la Madonna, possono sospendere anche le leggi della natura, cioè con la preghiera e il digiuno possiamo ottenere anche la grazia che tutte queste scosse, che veramente sono un tormento anche psicologico, abbiano a cessare al più presto. Questo lo possiamo chiedere. e la Madonna se ce lo può anche dare, se la nostra preghiera è insistente, fatta col cuore, certamente la Madonna ci può fare questa grazia. Oh, amico mio, no, i terremoti non possono finire con una preghiera, altrimenti sarebbero già finiti, no? C'è un sacco di gente che prega dopo i terremoti, eppure ce ne sono altri il giorno dopo in tutto il mondo. E di che stiamo parlando? Lui potrebbe risponderti perché essendo il mondo pieno di peccatori, quindi c'è il terremoto. Ho capito, ma siamo alla follia però. Ammetterai che siamo alla follia o no? Guarda, non siamo alla follia. Guarda. Vabbè, c'è gente che ci crede, c'è come al solito tuo. Che dunque è giusto. Dai, no, su. È una follia, ragazzi. Dai, è una follia. Però non meno follia è quella che ha detto una speaker della Fu Radio Padania, ecco, chiamiamola bene, della Fu Radio Padania. Radio Calabria, una tale radio buona, meraviglioso. Radio Calabria, stupendo. Radio Calabria, anzi chiamiamola sempre Radio Calabria, non chiamiamola più Radio Padania, chiamiamola Radio Calabria. Radio Calabria. Allora, Pacchiotti, speaker di Radio Calabria. Come si chiama questo? Pacchiotti, no, è lei, una lei, credo. È Pacchiana, lei. Però. Pacchiotti o lui, lei, non so, è uguale, tanto per noi è uguale, per loro no, ma è uguale. Lui, lei, Pacchiotti, speaker di Radio Calabria, senti. Che i fatti geologici si possono ben staccare da quelli che sono i cosiddetti castighi. Casomai penserei di più al crollo della Basilica di San Benedetto da Norcia con la visita di Bergoglio alla questione di Lutero. Questa la metterei più vicina. Ma sì, mettiamola più vicina, dai, su, ma perché no? Il crollo della Basilica di Norcia con la visita del Papa ai luterani, ma mettiamola vicina, accostiamone le cose! Se andiamo a Norcia a raccontare questa cosa, lo sapete? La Basilica è crollata perché il Papa è andato a incontrare i luterani. Ti inseguono con il forcone, se lo dici. Cioè, non è crollata per eventi naturali, perché i terremoti ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre, purtroppo. No, perché il Papa Bergoglio, che a me pure non sta simpaticissimo, è andato a trovare i luterani. Cioè, io penso che una frase del genere, uno dice, vabbè, amico mio, senti, io penso che una visitina alla Neuro sia altamente raccomandata, perché se uno mette in fila le cose e dice il Papa va a trovare i luterani e poi crolla la Basilica di Norcia, amico, io ne dico tante di cazzate, lo sai, no? Ne dico tante, però a questi livelli non ci arrivo. A questi dico quello che penso. Soprattutto perché quella lì è una radio. No, non ne posso più. Radio Calabria stiamo parlando, Stiamo parlando di Radio Calabria con tutto rispetto per la Calabria, Radio Calabria. Libero salame in libero stato, libero salame in libero stato. E traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Caro Cruciani, sto ascoltando Radio Maria. Devo dire che è quasi peggio di Radio Padania. Allora ragazzi, vi ripeto, dopo le frasi di Radio Maria, il castigo, il terremoto castigo per il peccato originale, il castigo provocato dai peccati dell'uomo, e tra i peccati dell'uomo ci sono il matrimonio, le unioni civili, le unioni sessuali, queste cazzate pazzesche di Radio Maria pronunciate da un tizio che si chiama Padre Cavalcoli, con cui abbiamo parlato, manderemo l'intervista più tardi verso le 19:40. La sostanza di questa intervista è abbastanza clamorosa, dice, oltre a non scusarsi, dice: confermo tutto, i terremoti sono provocati dai peccati dell'uomo come le unioni civili, e il Vaticano deve ripassare il catechismo perché il Vaticano si è pronunciato contro queste frasi. Amici miei di Radio Maria, siete in mezzo alla merda, dai, su. Un po'. Poi mi dispiace pure, capito? Mi dispiace pure perché comunque è la RAI. A me, insomma, io vivo per la radio, per cui. Comunque mi dispiace. Beh, mi dispiace per niente. Ah, mi dispiace che mi mettono in mezzo così. Mi dispiace, è una radio che ha una sua identità. Vabbè. Beh, ho capito però. Vabbè, ragazzi, quello che succede, succede. Allora, Siffredi ormai presente praticamente in moltissimi talk show. Rocco Siffredi, sì, sempre lui. Rocco Siffredi, molto presente in tutti i talk show a parlare anche di elezioni americane, caro Parenzo. E ovviamente, secondo te, per chi fa il tifo, Roccone? Per chi fa il tifo? Spiegami. Ma temo per Trump. temo. Amico mio. E... senti cosa è andato in onda su Rai 2 ieri. Perché alle volte ragiona di più con il suo strumento di lavoro che non con la testa, capito? Però ma no, ma dai, perché devi dire così? Ho detto dai. Ragiona di più col suo strumento di lavoro, che però per lui è, come dire, è gold, no? Il gold il pisello, boy. Sì, il pisello, che gold no, boy? Non si è mai detto gold dire... boy, ma gold boy non si è mai usato. No, frase, ma scusa. Per dire il gold, insomma, pisello, il suo... No, no, vabbè. Scusa, ma se suo... in prima serata su Rai 2 può dire il cazzo duro, potremmo utilizzare la parola... No, usiamo... Il termine latino instrumentum regni. Questo è ad buono, esempio. Questo tu lo puoi usare. Il suo instrumentum regni. Sai che Radio regni. Calabria mi ha fatto impazzire come cosa? Cioè, da ora in poi qualsiasi Radio cosa è Radio Calabria. Cioè sarebbe ex Radio Padania. Ex già, Radio... anzi, come nelle vie c'è scritto, no? Già Radio già, Padania. Via Togliatti, già esatto, Almirante. Sì, sì. Cambiato tutto, no? Ecco. Già Radio Padania. Siffredi. Sapete che faccia è quella? La faccia di uno che ha il cazzo duro. Ragazzi, me ne intendo. Cioè, la faccia c'era. Dove l'avrebbe detta questa, no, questa Rai, analisi? Rai dove l'ha 2 fatta? Nemo, trasmissione, credo. Ah, Rai 2 Nemo. Non avevo visto questo. Non so, ma credo. Però, Rai 2 Nemo, con la foto di Trump messa lì. Trump ha la faccia di uno che ha il cazzo duro. Bah. Però. Rai 2, amici miei, Rai 2. Sì, non sì, servizio pubblico. Non rompete il cazzo a noi? Uno dice, però è un guerrafondaio Trump. La risposta di Siffredi è molto eloquente, senti. Dalle parti mie si dice che chi non scopa fa le guerre. C'è anche un fondo di verità in questa cosa, eh? C'è anche un fondo di verità. Sempre là finisce però, eh? Allora, scontro sugli immigrati tra Veronica Gentili, una signorina, piacente signorina, un signore, che è un'attrice fa, brava, che columnist del Fatto Quotidiano, dai, nonché collaboratrice della bella trasmissione del mattino, sì, del signor Milan. Sì, sì, ma sì, ogni tanto sì, ah, comunque insomma, Gentil un'attrice che da ogni tanto, ah, ogni tanto fa le editorialista, la commentatrice, una sì, columnist. Ormai columnist. Succede di tutto in Italia, va benissimo, per carità, ma io sono, ah, siamo solo contenti. A zero, nulla, assolutamente nulla. Allora, stavo finendo soltanto di dire che invece il ruolo dei prefetti che sono chiamati a far questo è necessario che riescano a distribuire le persone in una maniera adeguata a quelle che sono le loro possibilità, perché è chiaro che nel momento in cui tu hai un numero esagerato di profughi rispetto a quella che è la popolazione diventa impossibile. Vabbè, guardi, dai, io la ringrazio, statista, dai, che abbiamo lì, no, seduto. No, ma non ce l'ha pensato nessuno. Ma io sono demagogico, ma lei ma, è veramente... Cioè, ma lei, è evidente, ma Veronica, certo, concluda. Perché lei ha una funzione che non è la mia. Quindi io credo per caso dell'accoglienza. Che Marcato, sia, per favore, dai. E questo crea una guerra tra voi e loro, certo, quando in realtà è un problema unicamente di prezzi, certo, e ribasso. Cara signorina, ma nel frattempo io che faccio? No, ma io sono d'accordo con lei, infatti sono un altro, assolutamente d'accordo un altro sul pensierone. Suo problema. Vabbè, Marcato, dai, buono, cinque, dai. Fra 5 e 6 buono, cosa ci illumini. Io vorrei metterla al governo una quindicina di giorni per vedere il Giovanni Totti. Cioè, siccome è un po' pesante, cioè Marcato, lei dice che così il paese affonda sotto il suo peso, capito? La Gentili attacca Marcato perché è un po' ciccione Marcato. No, per le sue sciocchezze, no? Per le sue sciocchezze, vi mettiamo al governo così vediamo poi come va a finire, dai. Va. È tornato Capanna in televisione, eh? Dov'era? Sì, sì, a Tagadà, ritorno alla terra col tipo olive, senti. Io sono giovane di spirito e quindi ho fatto il mio ritorno alla terra per una ragione particolare. Vedete queste olive? È una oliva assolutamente particolare perché è la Borgiona, che è una varietà autoctona dell'Alta Valle del Tevere e che produce un olio originalissimo perché è caratterizzato da un prevalente profumo di pomodoro. È un genio. È veramente fa geniale. Anche l'agronomo sa tutto, sai, anche della. Allora della andiamo a Matteo Milano, vai. Matteo, dimmi. Ragazzi, scusate, io devo intervenire su Radio Maria, ma perché lei è proprio grossa, Cosa cioè... è grossa? Cosa? Ma è grossa, scusami, il ragionamento. Allora, il signore ce l'ha con i gay perché si uniscono, ok? E dunque cosa fanno? E dunque, cazzo, fa un terremoto e verrà giù la cigay di noccia, verrà giù. Non so, viene giù il comune che fa le unioni civili, ma se viene giù una chiesa, forse. Sì, infatti, effettivamente non è male questo ragionamento, però sai. Il ragionamento logico è che forse il Signore o cade sotto il fuoco amico. Il Signore manda il terremoto, diciamo, Dio manda il terremoto, però poi non può governare il terremoto, perché in teoria hai ragione tu, dovrebbe indirizzarlo sui comuni e non sulle chiese. Cioè, cazzo, è che si fa male da solo. È un autogol questo di Radio Maria, cazzo. Cioè, manda il Signore, manda il re e va giù la chiesa e vanno giù i loro. Ma no, ma scusami. Parenzo, non ha torto questo ascoltatore. Non ha torto. Sì, no, è una cosa vera, effettivamente. È interessante, cioè, è vero. Uno può trovare. È una cazzata, è inutile nemmeno ragionarci sulla cazzata. Però, effettivamente, se uno dovesse crederci, dice, vabbè, crediamoci, no? Però poi c'è una contraddizione di fondo. Oppure uno dovrebbe dire che in quella chiesa sono tutti peccatori, in quella comunità. Ma no, ma scusa, cristiana. Dio manda il terremoto perché ci sono le unioni civili, perché sono i peccatori. Sì, d'accordo. Però se uno crediamoci, Dio manda il terremoto perché ci sono le unioni civili, perché siamo tutti dei peccatori, eccetera. E però, amico mio, a quel punto, perché non lo mandi sul comune? Perché non lo mandi su una pizzeria? Perché non lo mandi in un club porno? In un posto per scambisti? In una discoteca? Invece sono cadute tutte le chiese. I conti non tornano, Pronto? Radio Cortigiana di Renzi? Ah, è la zanzara? Vabbè, la stessa. Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre e soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presento La Zanzara. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. Cruciani, Parenzo. È da quando ho 17 anni che vi ascolto, 17 anni. Ho perso la virginità dopo avervi conosciuto, quindi guarda, quei 25 anni ingegneri, che giovani, 17 anni. Proselitismo puro, nuove generazioni, il futuro della zanzara siamo noi. Luciani, Parenzo, sono una ragazza di 19 anni che, mentre fa i test per la patente, si gode in diretta streaming La Zanzara. Siete il top, vi amo tutti e due. Un bacio. Giovani, sempre più giovani. Giovani, sempre più giovani. Bene, molto bene. A me mi fa incazzare quando la Boschi... Che reputo abbastanza modesta come personaggio politico, dice non si giudicano le donne dalle scarpe. Ma chi ha mai giudicato le donne dalle scarpe? Cioè, ma chi se ne frega? Cioè, in che senso? La Dedasi? Ho sentito la Piazza Pulita ieri sera. La Piazza Pulita. Le donne devono essere giudicate per quello che fanno e non dalle scarpe. Ma qual è la novità? Dire non dal tacco, dal modo di vestire. Ma chi se ne frega? Per la bellezza, in quel senso lì. Ma comunque una cosa scontata. Però sai, è vero che con le donne si è sempre più severi nei giudizi, no? Ma non è vero. Si tende sempre a dire... Scusami, Però è belloccia lì, perché è bella la bionda, la fatina, la madama. Insomma, è fastidioso. Questa roba qua, ma no? È fastidiosa di cosa? Di un la uomo bellezza non fa lo diresti parte, mai la però, come no? La bellezza però fa parte, di un uomo non è che lo come dici no? Quando parli del parrucchino di Trump o dei capelli di Trump, siamo di fronte a un caso eclatante, o il nano Berlusconi, no? Quando si diceva il nano, eccetera, amico mio, ma che dici? Però anche si giudica tutto, si giudica tutto, anche la bellezza di una donna, ma nessuno ha mai giudicato la Boschi solo attraverso gli occhi o attraverso le lenti della bellezza o della bruttezza, del fatto che c'ha il sedere così, la pelle così o la pelle colà. Nessuno l'ha mai giudicata. L'hanno giudicata semplicemente per quello che fa o per quello che dice. Boschi. Poi a me piacerebbe, ma lo dico sinceramente, visto che adesso ha anche questa nuova responsabilità delle pari opportunità, che in un mondo normale, visto che domani ci saranno purtroppo anche i funerali di Tina Anselmi, in un mondo normale, se una donna decide di impegnarsi in politica, che faccia la sindaca, che faccia la deputata, che faccia la ministra, le scarpe siano l'ultimo dei problemi, perché si guarda cosa fa, che cosa pensa e che cosa dice, perché su quello deve grazie valutare a te, Elena. Allora, c'è un sindaco che si chiama Balotti, Parenzo, in un paese che si chiama Cene, credo che sia in provincia di Bergamo, se non sbaglio, no? Che ha affisso, sai quei cartelli luminosi che ci sono nei comuni, sì, per avvertire, no, del traffico, traffico, cose, certo, del genere, no? Praticamente vadano via, meglio ospitare i terremotati, ha scritto, meglio ospitare i terremotati. Solita stupidaggine di Dio. Senti. La sera alle 10 è arrivato il primo pullman e poi a mezzanotte il secondo. Io mi sono permesso di dire che arrivando così alla chetichella mi sembrava che il trasporto degli animali. Cioè, sembrava il trasporto degli animali. Il sindaco avvisa che senza essere informato preventivamente sono stati collocati 59 cittadini stranieri, eccetera. Quanti? Eccetera. 59 cittadini stranieri. Scandisci bene quanti. 59, beh, che 59. Ma il paese è molto piccolo, che c'entra? 59 persone. Dai, 5? No. Cioè, questo sindaco 59. Ha praticamente messo lì dei cartelli di pubblica utilità. Sì, ma dai, ma si è fatto per pubblicità. Denunciare questa scelta di portare a casa sua. Si fa pubblicità sulle spalle di povera gente. Ma non è vero, ma uno, miserabile. Hashtag. Ma che miserabile? Ma uno sarà padrone. Hashtag miserabile. Inondatelo di mail, amici. Italia silenziosa. Amici della radio, che non telefonate perché non avete tempo da perdere, ma ascoltate e prendete appunti. Inondate di email, hashtag miserabile, questo sindaco. Inondatelo di email. Fate sentire la voce dell'Italia per bene, dell'Italia silenziosa, l'Italia che lavora, l'Italia accogliente. Fatevi ascoltare, come al solito, in silenzio. Il vostro urlo silenzioso. Come ascoltare in silenzio, scusa. Perché questo, dici inondare la mail. Inondare la mail, ma il vostro urlo assordante ma silenzioso si fa sentire ed è più forte delle urla di Donato da Varesi, di Mauro da Mantova, di tutti questi quattro stronzi che chiamano. Voi il vostro assordante silenzio li sconfiggerà perché è più forte. Ripeto, senza essere informato preventivamente sono stati collocati, questo in un cartello luminoso, comune di Cene, 59 cittadini stranieri nella ex colonia, che cazzo è, presso la ex colonia, eccetera eccetera. Allora, Diego da Roma, vai Diego. Diego? Sì. Dimmi. Sì, volevo dire che... Sì. Sì, ma ti dobbiamo sentire però, se non si sente in cazzo. Dimmi. Radio Maria ha perfettamente ragione. Come Radio Maria ha ragione? Dai, su, dai, solo, amico mio. Solo un ateo agnostico senza Dio come te può pensare che un credente... Questa è la Volpe. È la Volpe Luga questa. Anzi, la Volpe è Radio. Sì, è Diego Volpe Pasini. Va bene, sì, d'accordo. Ma Diego, che c'entra? Stai esprimendo una sfida. Chi sì, se ne frega, sì, Diego Volpe Pasini. Allora, Diego, non ho capito, scusa. Questo è un paese in cui l'idea di Volpe Pasini vale quanto come quella fa... di Settis. Pensate. Come vabbè, fai comunque a dire... Certo, questo è un paese le opinioni sono tutte uguali. Le opinioni sono tutte uguali. No, qua... Ma che stai facendo? Sei morto? Che stai facendo? Ma sì, benvenuto... Ma che qua fatto? È l'errore, cioè il limite della democrazia qual è? Quello che l'opinione di Diego Volpe Pasini o di Donato da Varese vale quanto quella di Settis, ad esempio, o di Zagabeschi. Questo è il dramma. Il dramma è questo qua, però dopodiché è l'unico sistema che abbiamo visto che può funzionare. Ma scusa, ma non però è il dramma, ma è normale che sia così, scusa, è normale. L'opinione di Donato Diego da Varese o nel merito di Diego Volpe, sottolineo Volpe Pasini, vale quanto l'opinione del professor Settis. Ma chi se ne frega? Ma meno male, meno male. O di Pane Bianco, Angelo Pane Bianco, o di Luca Ricolfi, o di, posso dire, Alberto Quadrio Curzio. Cioè, sai che cosa vorresti? Pensa tu? Vorresti il governo degli ottimi, il governo dei professori. Beh, io vorrei segnalo... essere governato da gente no, migliore di me. No, ma questo ti segnalo, è sicuro. Ti segnalo che se vedo dei mediocri. Lui andrebbe a fare le pulizie. Se vedo dei mediocri, cioè persone inferiori a me, un po' mi spavento perché dico, ah cazzo, allora, io vorrei avere allora, qualcuno. Fermi tutti, ti segnalo capito? Che il signore di come? Radio che ha pronunciato quelle parole a Radio Maria è un professore universitario. No, ti segnalo solo questo. Però beh, torniamo vabbè, al merito, sì. Scusa, Diego, perché sì, Radio Maria ha perfettamente ragione? Non ho capito, sì, ma se ti ha preso, sì, ti ha dato di volta al cervello, scusa, non ho capito. No. nella loro ottica, nel loro ruolo, che è quello di parlare ai credenti, esiste nei libri, nelle scritture, dappertutto, non solamente nel cristianesimo, anche nel ebraismo e nell'islam, la punizione divina. Per cui rispetto a peccati compiuti e commessi dall'umanità esiste la punizione. Se non ci fosse la punizione, non ci sarebbe stata sottomissione alle religioni per 2000 anni. Se non ci fosse la paura, non ci sarebbe sottomissione alle religioni, non ci sarebbe... No, ma amico mio, stai cercando una spiegazione, come dire, non so, teologica, eccetera, eccetera, che appena avrai sentito fra poco le parole del Signore che ha pronunciato quelle frasi a Radio Maria, intervistato da questa trasmissione, quale ha confermato tutto, eccetera, eccetera, non solo, ha parlato di Sodoma e Gomorra e di altre follie di questo tipo, sì, facendo un collegamento... Perché non mangia prosciutto, David Parenzo? Non mangi? Perché essendo ebreo rispetto i dettami. Rispetto alcune delle 613 precette. Che collegamento c'è tra il terremoto e la religione? Ragazzi, non diciamo cazzate, Diego, dai, su. Ma non c'è nessun collegamento. Ma è quello che fa questo signore, dai, su. Le unioni civili, peccati... Ma non è normale che lo dica! Non è normale che lo dica! È un coglione se lo dice! È un emerito coglione! Ma te un coglione perché pagato pure con i soldi nostri, perché diamo pure dei soldi a Radio Maria, vergogna! Beh, questo diamo soldi a Radio Maria, problema dello Stato. È importante, però, scusami, è importante. Sì, però dalla loro ottica hanno ragione, fanno il loro lavoro. Ma che vuol dire fanno il loro lavoro? Beh, pure Hitler faceva il suo lavoro, che vuol dire? Ma adesso non sto paragonando Radio Maria a Hitler. Però anche Hitler. Ma no, non sto dicendo il paragone tecnico tra anche Hitler faceva il suo mestiere, si era messo in testa che gli ebrei non era... depositi il simbolo Radio Maria, vota Radio Maria, bellissimo sarebbe. Visto che lui deposita sempre, chi è che mi chiama adesso? Sì, pronto? Chi è? Fermo chi è? Fermo. Dai ragazzi, sì, Gabriele io, da Genova, ciao Diego, Gabriele dai. Dai Gabriele, esci dimmi. Esci da questo corpo ormai in decadenza, esci dal corpo di David Parenzo. Satana, te lo ordino, abbandona le membra di questo sventurato, libera di Parenzo il corpo mortale dalla tua infestazione maligna. Satana, te lo ordino. Ma di che stai parlando, Gabriele, scusami? Ma ho sentito l'altro giorno Parenzo, l'altra volta avevo provato a fare l'esorcismo con te, è riuscito un po' all'inizio, ma non troppo, perché poi tu... Cioè, non credo, perché dovrebbe uscire Satana da Parenzo? Non ho capito. Ti ricordi l'altra volta con Gio Formaggio come faceva? Era completamente posseduto veramente da uno spirito cattivo. Beh, uno spirito cattivo, lo contestava Gio Formaggio per quello che diceva, si è incazzato pure con me perché glielo lasciavo dire, certo, cose certo, normali certo, che avvengono in una trasmissione. Cosa so, che c'entra il diavolo che... Fagli l'esorcismo, fagli l'esorcismo allora. Sì, sì, ma gliel'ho fatto, gliel'ho già fatto. Menzognero e omicida fin dal principio, fin dal principio. Principe del male, Satana, abbandona il corpo mortale di Davide Parenzo. No. Cioè corno, ma che vuoi? Non è possibile. Ma cornuto, ma stai zitto cornuto. Ma si capisce, tocco tutti i ferri del diavolo. Oh. Fermi ragazzi, fermi tutti. Menagramo, d'un menagramo. Come lotta il signor David da Padova, come lotta. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Pneumatici invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. La Zanzara. Anche ieri sera, i revisorini di PWC, dopo una strenua difesa del cesso, sono capitolati, e il comandante Cruciani ha espugnato la tazza. Avanti tutta, nostro comandante. No, ragazzi, ieri sera non ho dato nel cesso di Pricewaterhouse, eh? Non ho dato ieri sera, non ho dato. Allora ragazzi, veramente in Italia sta trionfando il bigottismo. A Imola, una prostituta e un cliente sono stati sorpresi a fare sesso in auto, caro sì, Parenzo. Ho visto. Hanno ricevuto una multa di 10.000 euro ciascuno. Il minimo, mi pare, il minimo per atti osceni. Ma come il minimo sindacale? Uno giusto, si apparta a giusto, fare una trombata in auto giusto, con una prostituta, giusto, la cosa più antica del mondo, la trombata in auto. Il miserabile dai, vada in un albergo, vada a casaccia sua il miserabile. Vada a casaccia sua mentre magari la moglie non c'è, così la moglie che se ma torna dai, 5 minuti su prima dice: oh amore, cosa fa? Amore, ma chi è? ma come si fa, ragazzi? Ma è una follia totale, dai. 10.000 euro di multa per esserti appartato con una prostituta, dai, in macchina, che è una roba che si fa da non so quanto tempo. Beh, 10.000 euro. Ma questi vigili urbani di questi comuni del cazzo, questi comuni del cazzo che vogliono pigliare soldi sulle voglie sessuali dei cittadini, mi fanno veramente schifo. Cioè, Imola mi fa orrore. Imola mi fa schifo. Lo posso dire a voce alta? Imola, non capitale, Imola in quanto Imola. Morale d'Italia. Cioè, non in quanto Imola, tale. Capitale, l'amministrazione di Imola d'Italia. E quelli che fanno una multa a due che si appartano in macchina per 10.000 euro Attio ciascuno. Ma in luogo pubblico, ragazzi. Su, dai, sono dei pazzi. Sono dei miserabili loro. Chiaro? Allora, Mario da Roma, vai, Mario. Pronto? Dimmi, Mario, dimmi. Senti, volevo dire, non mi riallaccio al terremoto e poi la c'è stata una punizione di Dio. Sì. Per me sono malattie mentali, sia le religioni che il comunismo, in poche parole. Ma che c'entra il comunismo in questo posto, caso? Scusa, per tutto, le chiese sono crollate, con tutto il rispetto per carità, io penso che sia la più grande catastrofe dei tempi moderni, il comunismo. Ma detto questo non c'entra nulla in questo caso. No, quello e quell'altro, in poche parole, no, associo. Associ in poche parole, vuol dire in poche parole. Il comunismo, vabbè, comunque. A posto, volevo dire questo, a posto delle chiese che sono crollate, no? Sì, che sono. Sì. Se facessero degli osservatori astronomici, toglierebbero tanta di quell'ignoranza e si capirebbe che Dio nel mondo non esiste, non c'è Dio, non esiste Dio. Va bene. No, ho capito, no, però su questo ti sbagli, scusa. Le chiese, io pur essendo ateo, considero le chiese delle cose straordinarie dal punto ti di vista architettonico. L'ISIS abbatte le chiese. Esatto. L'ISIS abbatte i monumenti storici. L'ISIS lo fa. L'ISIS. Dai, hai capito? Su. No, quello no, ragazzi. E toglierebbero tanta di quell'ignoranza nel mondo. Ma cosa vuol dire? L'ignorante è ignorante. Le religioni, tutte le religioni, sono il calcio dell'umanità. A me lo dici. Anch'io lo penso. Ho detto questo, che c'entra le chiese, dai, su, cioè, non, come non c'entra? Non scherziamo, dai. Francesco Torino, vai. Francesco. Oh, Francesco. Pronto, sì, scusa. E dai, che stai a fare? Scusa, sono mezz'ora che sto aspettando. Senti, innanzitutto ve lo dire solo una cosa a Parenzo. Io sono uno degli stronzi che telefona, la prima volta che telefono, ma sono uno degli stronzi che interviene. Ecco, mandalo a fare in culo per quello che ha detto, va. Vaffanculo, Parenzo. No, vabbè, non c'è bisogno. Piacere, Parenzo, eccoci qua. Non c'è bisogno. Cruciani, hai notato che quando Parenzo alla 7 è bravo, educato, è un educato. Ma sono contesti diversi. Una puttana, è come una puttana. Ma non è ho detto piacere, cioè il mio cognome è Parenzo, lei mi pare abbia un altro cognome. No, e poi offende anche noi che stiamo ascoltando la Zanzara, insomma non mi pare. No, non tutti, io offendo alcuni miserabili. Miserabili non è un'offesa. No, però. È miserabile che però no, grazie a noi comunque ti diamo la pagnotta. Scusami tanto. Continuate ad attivarla, perché siete dei furbacchioni che continuate a telefonare. Gli ascoltatori che ascoltano la Zanzara. Ma io non ringrazio, ma quelli che ascoltano sono un conto, quelli che chiamano. Quelli che chiamano come lei si qualificano da soli come hashtag miserabili. In questo caso lei è uno. Io sono un miserabile anche stronzo. Ma adesso infatti lei se lo dice da solo e mi fa molto piacere, perché finalmente riconosce chi è. No, e quindi io questo va bene. Miserabile stronzo. Scusami, se l'ha appena detto. Tu, Parenzo. Dai. Va bene, Francesco, che volevi dire? A parte tutto, allora. Comunque, le posso consigliare una cosa? Sì. Le posso consigliare una cosa? Allora, lei adesso, quando ha finito di inveire, di fare le sue cose, no, faccia non così. Sto inveendo. Scusa, quando lei ha 5 minuti di tempo, faccio una cosa. Adesso io ogni giorno darò un consiglietto utile, a mio avviso. Poi diranno snob, tutto quello. Allora. Faccia così, legga l'articolo di Ainis su Repubblica, molto bello, non lasciare senza diritti la comunità musulmana. Allora, io do questo consiglio oggi. Legga l'articolo di Ainis su Repubblica sulla libertà religiosa, l'Italia è rimasta indietro. Nulla, ma è un consiglio che le do per arricchire se stesso. Beh. Sì, ho capito, dai, bravo. Allora, volevo su Gorio, la bravissima persona che... Sono immigrati che sono andato lì al vicino Ferrari, a Gorio, sì, Gorino, allora sì, uguale, come si chiama non è importante, giusto? Sì, tutto importante, superficiale, scusa. Tutto così. Sì, tutto superficiale, invece lei è intelligentissimo, molto colto. Francesco, molto cosa vuoi dire? Dai, forza. Ecco, vabbè, comunque queste persone qua non fuggono dalla miseria, non fuggono dalla guerra, non è vero, perché c'è un'intervista, io pure a Parenzo, c'è un'intervista proprio che ha intervistato da che persone. Cosa fuggono? Uno fugge perché è stato minacciato dal marito, l'altro fugge perché aveva dei debiti del nonno dovesse scappare, l'altra era senza papà perché non so che cazzo era, doveva scappare in qualche modo. Cioè tu dici, insomma, che quelli che scappano arrivano in Italia, in realtà non fuggono né dalle violenze né dalla fame, ma in realtà per i cazzi loro. Anche per i cazzi loro, certo. No, ma che siano che i profughi veri e propri siano una minoranza, su questo non c'è dubbio, solo Parenzo non lo ammette. Vabbè, Parenzo, va bene, dai. Parenzo, va bene, Francesco, ciao. Franco, ciao. Bari, vai, Franco. Buonasera. Dimmi. Senti, Crucia, io volevo dire, quello diciamo che ha detto il prete, là, diciamo, è una cazzata, no? Sì. Però, Crucia, stai da pensare, perché comunque... Stai non da pensare dico a che cosa? Io voglio capire, Crucia, questi borghi medievali dal 1200 in piedi, poi da un giorno all'altro si sgretolano. E allora? Secondo me è la mano dell'uomo, sta per forza. Cioè, in che senso la mano dell'uomo? Spiegami. E che ne so, a togliere gli alberi, disboscano, fanno, vanno a costruire dove non devono costruire. Ma cioè, cosa c'entra questo, cioè le costruzioni che vengono fatte male, con quelle minchiate dette da Radio Maria? Spiegami, cosa c'entra? No, vabbè, io voglio dire che comunque, diciamo, no, la punizione di Dio, poi uno può credere, non può credere. Anche ma tu ci credi Dio, o no? Io ci credo, io ci credo solo a uno, e sono devotissimo a Massimo, a Padre Pio, perché è veramente un santo. Però preti su 10 mi stanno su... Ti stanno? Sulle palle, non li posso vedere, mi stanno sul cazzo. E allora? Ho capito se secondo te Radio Maria ha ragione quando dice che i terremoti sono provocati dai peccati dell'uomo, tra cui l'omosessuale. No, dai peccati in che senso, però? Bisogna specificare. I peccati, le unioni civili, l'omosessualità. Secondo me, perché comunque la mano dell'uomo sta, Crucia, io ci penso. La mano dell'uomo. Vabbè, Franco, ciao. Ciao, stati bene. Ciao. Allora ragazzi, queste sono le parole che fra poco sentirete del signore che non chiede scusa, del prete che non chiede scusa, assolutamente, nonostante il fatto che il Vaticano, Radio Maria ha preso le distanze e che il Vaticano ha detto che sono parole offensive e scandalose, questo signore che fra poco sentirete, che è padre Cavalcoli, questo signore che fra poco sentirete, collaboratore, dicono, di Radio Maria, conferma tutto. Gli abbiamo dovuto far riascoltare, Parenzo, le parole pronunciate da se stesso, perché prima dimentico. Sì, non riuscivo nemmeno a ricordare, ma sono stato io, se lo... Comunque, sentite. Pronto? Padre, scusi, prima, mi perdoni. Ha ragione, mi perdoni, ho esagerato. Allora, per chiarire una volta per tutte, se lei ha detto quelle cose, le ritira, chiede scuse ai terremotati, giusto? Senz'altro. Ripetiamo esattamente cos'è che avrei detto. Adesso le faccio sentire le parole. Ancora guarda, costa storia, però. Mi pare bizzarro, però il 30 stia ottobre. Attento, aspetta, perché altrimenti ci confrontiamo. Esatto. Dal punto di vista teologico, questi disastri sono una conseguenza del peccato originale, quindi si possono considerare veramente come castigo del peccato originale, anche se la parola non piace, ma io lo dico lo stesso, una parola biblica, quindi non c'è nessun problema. Naturalmente bisogna intendere bene cosa significa per castigo. Castigo divino. Si ha l'impressione che queste offese che si recano alla legge divina, pensate la dignità della famiglia, la dignità del matrimonio, ma la stessa dignità dell'unione sessuale al limite, no? Ecco, viene fatto veramente di pensare che qui siamo davanti, chiamiamolo castigo divino, certamente un richiamo molto forte alle coscienze per ritrovare quelli che sono i principi della legge naturale. Ecco, ha sentito le sue parole? Lei ha detto che le unioni gay sono delle offese praticamente. Magari lei conferma, eh? No, a questo punto, scusi se oscillo, ma risentendo le mie parole, tutto sommato è un'opinione legittima. Dunque? Non vedo che ci sia. Ma dunque si può pensare anche che sì, un terremoto possa essere un richiamo, anche un castigo per i peccati degli uomini. In questo senso. Cioè, e le unioni gay sarebbero dei peccati, lei dice? Ah, ma si capisce, adesso questo è chiaro. Ma perché, scusi, è un peccato? Perché è un peccato, scusi? Vuoi che glielo spieghi? Scusi. No, voglio sapere, per lei un omosessuale chi è? Ma si ripassi l'etica cristiana, no? No, ma chi è un omosessuale per lei? Un uomo omosessuale è una persona che pecca contro natura. Sì, che... cioè un contro natura, diciamo. Certo. Ma due uomini che stanno insieme, per lei cosa sono? Sono dei peccatori. Sono dei peccatori. E dunque, se l'uomo istituzionalizza il matrimonio, l'unione, riceve una punizione da parte di Dio, per esempio attraverso il terremoto, giusto? Questo può capitare, supponendo che sia in cattiva ancora. Fede, che non ci sia ignoranza invincibile, si capisce. Ma cioè, per cui andremo ancora peggio, diciamo, mettiamo che ci sia l'adozione tra gay, che succede? Altro che terremoto, cioè cataclisma. Ma questo ho capito. Sì, no, per esempio, che può succedere con l'adozione gay? Ma che può succedere? Ma hai letto la storia di Sodoma e Gomorra? Cioè? Ma come? Ma si studia la Bibbia, ma sanno tutti, no? Appunto, cioè che succede? Sodoma e Gomorra, perché vengono castigate? Per i peccati degli uomini. E dunque l'Italia verrà rasa al suolo se ci dovesse essere. Al suolo. Certamente che il castigo esiste, ma questo senz'altro. Ho capito come le. Se ci fosse l'adozione omosessuale. Giusto, l'adozione omosessuale. E che cosa accadrebbe in Italia? La catastrofe universale dopo il terremoto? No, semplicemente sono dei peccati che meritano il castigo divino. Sì, ma ho capito adesso la domanda. Il terremoto come si può? Il terremoto si può intendere, sì. Come un castigo, come un castigo. Sì, per i peccati, ma sì, ma questo non dico niente di nuovo, basta dire. Beh, amico mio, il terremoto è provocato da cause naturali. Ho capito, ma io penso che lei un po' si dovrebbe anche vergognare, o no? No, è lei che non capisce. Io sono dottore in teologia e filosofia da 30 anni. Ho capito, ma lei che non sa distinguere, stia attento. La causa prima e la causa seconda. I terremoti sono che cosa c'entrano con la teologia e i terremoti? Ma c'entrano sì, perché le sto dicendo adesso chiudo, No, per carità, dica. Le sto dicendo per l'ultima volta che i terremoti entrano in quello che è il castigo divino fissato dal conseguente al peccato originale e che possono essere anche castighi che possono essere dati per l'occasione. Siamo? Sì, perfetto. Questo è il mio pensiero. Le unioni omosessuali provocano. Sono peccati. Possono provocare il terremoto, giusto? Possono provocare, certo, punizione divina. Benissimo. Capisce, sì. Secondo me, scusi per il mio modesto parere, io ho un modesto parere, non sono credente, sono un umile osservatore. Mi sembra, scusi se utilizzo questa parola, ma una piccola parola. Mi sembra una cazzata. Ma lo sa la parola cazzata? Cioè, è una parola così semplice. No, ma è una parola non offensiva. Non è offensiva, padre. È una parolina. Non è il caso, forse ha ragione. Forse sarebbe meglio dire che è una sciocchezzuola colossale. Possiamo dirla così almeno. Cioè, Radio Maria si è dissociata da lei, capito? Si è dissociata persino Radio Maria, Don Livio. Sono tutti arrabbiati, amico mio, te lo dico io. Non vorrei che anche il Papa la chiamasse, magari. Guarda. Ma io col Papa ho lavorato. Con Santo Giovanni Paolo II. Cioè, il Papa la pensa allo stesso modo? Di segreteria di Stato. Secondo lei Papa Bergoglio la pensa allo stesso modo? Ma questa è la Bibbia. È la Bibbia. Dunque lo pensa allo stesso modo, secondo lei? Ma sì. Allora, sì, il Vaticano chiede scusa ai terremotati. No, è la notizia di apertura. Terremoto, virgola, il Vaticano condanna Radio Maria. Parole offensive e scandalose. Lei dice ripassino la Bibbia, allora. Sì, si ripassa il catechismo. Cioè il Papa del Vaticano dovrebbe ripassare il catechismo. Il catechismo. E io direi di chiudere qua. Per forza. Che arrivederci, buon lavoro. Buon lavoro, arrivederci. Si vergogna anche un po'. Arrivederci, grazie. Mamma mia, ragazzi. Che situazione. Ma questo qua, uno che deve fare? Cioè, amico mio, cioè siamo veramente al delirio, capito? Cioè, se uno dice che il Vaticano, che ha condannato queste frasi, dovrebbero ripassare il catechismo, il Vaticano, eccetera. Amico mio, dai, su. Poi io sono uno di quelli che dice che c'è la massima libertà assoluta di dire quello che uno vuole. Mi dà anche fastidio se uno viene, come dire, se uno viene censurato, no? Beh, però, cioè, se uno supera il limite, però sui un terremoti, capito? È successo il terremoto a macerie ancora calde, in questo caso per fortuna non ci sono vittime, no? A macerie ancora calde arriva un signore, un prete, uno che collabora, a me non mi interessa la distinzione, con Radio Maria, e questo che fa? Dice che il terremoto è la punizione divina perché ci stanno i proci. Dai, su, adesso ho chiaramente riassunto, però più o meno è così. Federico Ancona, vai. Sì, ciao. Ma niente, mi domandavo se questa cosa fosse vera, no? Del fatto che c'è un Dio che ti colpisce, ma allora vuol dire che questi luoghi siano estremamente popolati da persone, da peccatori. Quindi mi immagino che intorno ai boschi di Norcia e quell'altra cittadina ci siano branchi di omosessuali che si accoppiano selvaggiamente. Non lo so, lo so, amico mio, ma che ti devo dire? Cioè, ma in realtà ci potrebbe c'è... essere anche un'altra spiegazione, però. Sì, ma qual è la spiegazione? Potrebbe essere anche dovuto ai vegani, nel senso, visto che Norcia e cosa lì sono, magari hanno pregato il loro dio antropomorfo. Non lo so, Federico. Simone, peccatori. Provincia di Pesaro, dai. Pronto? Dimmi, Simone, dimmi. No, volevo parlare delle elezioni americane, se possibile. No, dimmi quello che ti pare, Simone, dai, forza, veloce. Ho sentito che 330 economisti americani hanno scongiurato che Trump vinca le elezioni perché è un incapace. Sto leggendo che il debito pubblico negli Stati Uniti ha ufficialmente superato la soglia di 19.000 miliardi, sì, però, di dollari. Sì, però, amico mio, ma a noi che cazzo ce ne... A noi stasera, con Radio Maria e altre cose, a noi che cazzo ce ne frega? Io ti ho detto volevo parlare di ma questa cosa. Ma ho capito, cosa. Ma di che cazzo vuoi parlare? Di cosa vuoi parlare? Spiegami. No, no, che dicono, sono preoccupati di Trump. Ma non lo so, a me di quello che pensano gli economisti americani, non me ne frega nulla, zero. Voi parlate di Trump, e quindi per questo mi sono permesso di intervenire. Ciao, Cristiano Milano, ciao. Vai. Cristiano, dimmi. Allora, io tra l'altro ho parlato in modo educato e mi avete tolto la parola. Adesso utilizzo il vostro linguaggio. No, noi utilizziamo i linguaggi che vogliamo. Alcune volte i linguaggi forbiti, altre volte utilizziamo i linguaggi che utilizzano tutti gli italiani, chiaro? Ok, adesso utilizzo un linguaggio io duro. Allora, hai finito di dire minchiate sul catechismo? Prima lo studi, se no stai zitto. Prima cosa, il fatto che è inutile che fai lo scandalo perché per il catechismo della Chiesa Cattolica essere gay è un peccato. Essere gay è un peccato come il 99% dei comportamenti, delle etica sessuale di questa società libertaria, è chiaro? E questo lo dico anche a quell'altro coglione che recita facendo il ruolo del limite, limite, limite. Se vi interrogate seriamente di sul limite, parla, scusi, chiude. Non ho capito. Hai capito? Sono cristiano da Milano, è inutile ma che non fai ho capito, ruolo scusa, del limite. Scusami Cristiano, non ho capito, non ho capito bene. Su tutti, di tutti i fronti, e adesso state crocifiggendo uno cosa? Che ha detto una spiegazione teologica che è discutibile, ovviamente è discutibile, Cristiano, ma vi segnalo che Cristiano, scusa, Cristiano, a me della teologia. A me della teologia non me ne può fregare di meno. Se allora, tu parli, allora fai lo scandalo, se tu parli di terremoto, se tu parli di terremoto, se tu parli, se non te ne frega niente della teologia, non ne no, parli. Non me ne frega nulla perché si sta parlando di un'altra cosa, delle cause di un terremoto, chiaro? Allora, causa del terremoto dal punto di vista teologico non vuol dire causa ma dal punto quale? Di vista scientifico. Ma di che stiamo parlando? Allora, ma che vuol dire? Cose, studia, capra, ma che vuol dire, imbecille? Studia, che vuol dire, imbecille? Cosa vuol dire? Va a cagare. Ma che, di che stai parlando? Meno male che è un cattolico credente. La roba da pazzi, dai, su. Rino, Roma, dai. Eccomi. Dimmi. Senti, no, niente, volevo dire a proposito di quel discorso della procedura che è stata mostrata col cliente lì a Monza. Sì, sì. Voglio dire, infatti, vabbè, non l'ho letta, ma quella che hai detto te è proprio una cosa che fa rabbrividire, anche perché in un paese come, in un paesotto, insomma, come Imola, cioè, se non ti fai ogni tanto una botta, che cazzo fai? Cioè, voglio dire. Ma adesso Imola o non Imola, non credo che a Imola la gente si debba fare per forza le prostitute. No, però, in però voglio dire, è anche plausibile che ogni tanto uno voglia trovare un diversivo. 10.000 euro di multa è rovinata a quello, la famiglia sua e probabilmente anche la prostituta. Parenzo, allora, come fai a attio sceni in luogo pubblico? Ragazzi miei, fino a quando io. Perché siete così cotai alle leggi? Ma che vuol dire? Sono, ma come che sulla vuol legge dire? Mancino. Ma perché se uno tromba dentro la macchina è attio sceni in luogo pubblico? Può essere, certamente. Cioè, se trombi in macchina è attio sceni in luogo pubblico. Allora dovremmo essere. Cioè, intere generazioni di italiani dovrebbero essere. Ma portate. In genere ci si apparta un po' in posto. Ma io non lo so, lo fa, questo qua 10.000 euro. Si mette sulla via del corso principale. Chi era sulla via del corso? Si erano appartati dentro la macchina a trombare. Cosa che fanno? E hanno fatto benissimo a multarlo perché quello è andato a cercare l'amore con una ragazza sfruttata e quindi deve essere punito. Fermi tutti. Prova ad immaginare un programma radiofonico in cui chiunque può dire qualsiasi cosa. La Zanzara. Faccio giurisprudenza e ho appena fatto un esame. riflettivo sul fatto che a me non me ne frega un cazzo della soddisfazione di aver fatto un esame. A me piace solo il fatto di fare un esame, tornare a casa, stappare una bella birretta e ascoltare il podcast della Zanzara a tutto volume. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. It's not my problem. It's not my problem. Le lacrime di sangue a Canale 5. Ne abbiamo parlato ieri, vi ricordate, eh? Quello che secondo padre Cionfori lacrimerebbe sangue ogni 25 del mese, una cialtronata inenarrabile. Però abbiamo parlato al telefono oggi con padre Cionfori, Parenzo, eh? E conferma tutto, dice: venite in Puglia, venite, sì, in Puglia, vi faccio vedere. Gli stigmatizzati, quelli che ma sono ma io vado in Puglia a mangiare le orecchiette, ti pare che vado a vedere il sangue? Ma che stai scherzando? Cioè, vado in Puglia, vado a prendere l'olio buono pugliese, vado a mangiare i panzerotti lì, come si chiama? I panzerotti che c'entrano in Puglia, no, le orecchiette. Hanno le orecchiette, ma hanno anche quegli antipasti meravigliosi, dei panzerottini fritti. Ma senti, ti pare che vado a vedere il sangue, dai. Lo so io il segreto, quello lì e piange lacrime di sangue 25 di mese perché ha bello e finito lo stipendio, dai retta a me. Cruciani, io lacrimo ogni 27 del mese che mi va giù il mutuo. Giuseppe, anch'io lacrimo sangue, ma non dagli occhi, bensì dal culo. Ho un emorroide che è grosso come un kiwi. Non so più cosa fare, aiutatemi! Comunque volevo dire a quello che sanguina che c'ha il ritardo, perché in genere so ogni 27-28 giorni il sanguinamento, non può essere ogni mese. Allora Luca, provincia di Cuneo, vai. Dimmi. Ecco. Ciao. Dimmi. Volevo parlare a proposito della Boschi che dice non si giudicano le donne da che dalle c'è scarpe. Da dire? Che c'è da dire? Che ormai in Italia su qualsiasi cosa si viene etichettati, se uno critica una donna, sei un maschilista, sì. Se si critica questa immigrazione che è fatta come è fatta, fa schifo, il 90% di chi arriva non sono profughi, sei un razzista. Se parli, che ne so, a proposito dei gay, se non sei a favore dell'adozione, sei un omofobo. Cioè, non si può più discutere con le persone, vieni tacciato subito o di essere razzista, nazista, fascio. Dici, se fai un apprezzamento sulla Boschi, magari sulle scarpe sadomaso, coi tacchi, fetish, eccetera, dico no, devi stare attento a quello che dice la Boschi, non puoi nemmeno fare una considerazione su che tipo di scarpe ha. No, ma hai ragione perfettamente, cioè, è assolutamente poi, così. Punto. Ma poi, ragazzi, al massimo si fanno delle battute, al massimo si fanno delle osservazioni, poi a me interessa quello che dice la Boschi. O quello che non dice, o sì, quello infatti, che dovrebbe però dire, secondo me. Nessuno, cioè, sono troppo attenti pure questi ministri, pure questi politici, a qualche cosa che appare sui social, alle minime cazzate che vengono dette sui social. In realtà, poi, cioè, alla gente, di come è fatta la Boschi, di quello che fa a letto, con chi scopre, non gliene frega nulla. Non gliene frega niente. La Marco Bergamo, ciao, Marco. Ciao, volevo fare una piccola precisazione sulla notizia che avete dato di quel comune di Cene che sì, il sindaco avrebbe diciamo preferito non ricevere questi 59 immigrati. E sentivo Parenzo che diceva 59, scandiamo bene questo numero, come a dire sì, sono sì, pochissimo, cosa vuoi che sia. È un numero veramente limitatissimo. Ok, ma se io ti dicessi, non dico sì, numero a caso, se arrivassero 1 milione di queste persone in Italia da un giorno all'altro senza preavviso, diminueresti sì, così il numero? No, ma ha ragione no, il sindaco. Ma non è questo il punto. Un sindaco deve essere perché avvertito, deve essere avvertito, bisogna coordinare l'arrivo delle sì, persone. Sì, a parte che questa cosa che spesso non li avvertono è vera fino a un certo punto, perché questi ma raccontano perché delle balle quello non balle può scrivere clamorose sul cartello che non è stato avvertito? Sì, ma è una roba di propaganda, perché in realtà i prefetti stanno svolgendo in tutta Italia un lavoro straordinario. Ma che vuol dire? Cioè, ma che parole sono? Ma dipende, no, quel aspetta, prefetto di Ferrara ha fatto un casino. Ma quale casino ha fatto? Ha fatto perché poi ha ceduto, ma perché non voleva creare problemi. problemi di ordine allora, pubblico, Marco, la cittadinanza. Ma io conosco Cene, perché per quello che chiami, mi fa sentire che passa l'idea, il comune di Cene, mi fa sentire che passa l'idea che qui, in provincia di Bergamo, siamo razzisti. Cene ha 3.500 abitanti, se tu gliene porti 59 in più da un giorno all'altro, vuol dire, mi spiace fare i calcoli, è l'1,5%, come se in Italia, che siamo in 60 milioni, arriva 1 milione di persone da un giorno all'altro. Quindi un sindaco ha ragione a dire 59 persone, anche se sembrano poche, a me sballano, diciamo, la... Ma certo, è così, ragazzi, è così, fanno l'immigrazione, mandano le persone a cazzo di cane nei comuni, è evidente, altrimenti la gente non si incazzerebbe, ha ragione Parenzo che si incazzerebbero comunque perché vedono il negro, e ci sono un po' di persone anche aizzate che si incazzano solo se... ma è normale che sia così, perché, Parenzo, ti spiego una cosa. Non è normale, a noi, ma la supremazia della quartieri, politica è un'altra a cosa. Noi che abitiamo nei quartieri bene delle grandi città, delle grandi città, noi non ci accorgiamo di quello che può avvenire in un piccolo centro, aspetta una, ma come io no, non abito nel suo quartiere bene, non vuol dire come niente. Anch'io abito un quartiere bene, ma non è che mi vergogno. Un quartiere bene, cioè, a parte allora, che c'è di tutto, ti spiego una cosa, quando uno compra una persona della piccola e media borghesia, ma anche un operaio, si compra in un piccolo paese una casa che ha un valore 30, ha un valore 30, e ti mettono accanto 40 negri, e io dico 40 negri non in senso dispregiativo, 40 negri nigeriani, che poi magari diventano 100, 150, magari il 50% sono delle brave persone, l'altro 50% magari, perché non c'hanno un cazzo da fare, ma il problema diventano di come dei criminali, di come ma la lascia cosa, perdere, è chiaro che improvvisamente se quella roba lì diventa da un valore 100, diventa un valore 20, e la gente dice andate a fare in culo, io ho investito una marea di soldi in questa casa, tutti i miei risparmi, e un cazzo di prefetto Alfano, non so chi, per mangiarci sopra con le cooperative, non Alfano naturalmente, per il grande business, portano proprio qui accanto a me, accanto alla mia casa su cui ho speso un sacco di soldi, mi portano un nero, un negro, un nigeriano. Io non ho la finezza di dire no, però bisogna l'integrazione. Io guardo a che cosa mi metto, ma guarda che il famoso operaio, il punto è quello, che è intelligente, se vede che la situazione è gestita non ha alcun ma problema. Ma che cazzo dici? Come quando la gente ha alcun problema, quando come avrebbe lo stesso problema se ci fosse al suo fianco una colonia di ladri. La gente, cioè, vede, la gente Gomorra, Scampia, perché niente, è diventata Scampia e non c'è manco un negro, come dici tu, a Scampia non c'è manco un negro. A Scampia ci sono bande di criminali. Stai parlando di altre cose. E quindi quella zona è diventata sinonimo di criminalità. Stai parlando di altre cose. Perché ci sono bande di criminali a fronte di persone che invece sono brave persone. Bonificare queste zone, mediatori culturali, Davide, presenza ma fissa non dire dello cazzate Stato. La questo cosa più la punto. Cosa che guarda questo la è, cosa è. Che guardano queste persone qua, la prima cosa è che l'immobile, la casa che hanno comprato valeva 100, ma ti mettono così, a casa ti così. Mettono accanto 20 persone, io non sto discutendo giusto meno accogliere, cioè, anche le se mettono a 20 ultra a casa mi si svaluta la casa, se ma mi che mettono dire? 20 ma ultras che, ma che dici? Dell'Atalanta, ma che dici? A me mi girano le palle perché sono più pericolosi gli ultras dell'Atalanta di 20 immigrati, francamente, o no? Va bene. O no? Davide Mantova, dai. Davide, sì, vai. Buonasera Cruciani, dimmi. Buonasera Parenzo. Dimmi. Volevo fare due parole in merito al prete che ha fatto quelle dichiarazioni. Dal mio punto di vista sono ovviamente delle stronzate, ma detto questo, ammiro il fatto che si sia schierato contro il Vaticano per mantenere la sua tesi, e spero che faccia la stessa cosa su Radio Maria contro tutti i preti pedofili che invece di essere rimossi e condannati vengono spostati da una parrocchia all'altra. Ma questi non fanno mai nulla contro i preti pedofili perché li hanno coperti per una vita. Cioè allora, molti, se non li hanno coperti, hanno detto vabbè, ma sono problemi di cui non si sono interessati. Certamente non hanno denunciato, non sto parlando di padre Cavalcoli e di quello che ha detto quelle cose sul terremoto. Sto parlando in generale della grande ipocrisia per cui spesso la pedofilia non veniva nemmeno denunciata, non se ne parlava, capito? E intanto i bambini venivano toccati, venivano stuprati, eccetera, eccetera, e le famiglie erano impotenti e spesso non sapevano nulla. Massimo da Bologna. Vero quello che dice... Massimo da Bologna, ciao amico mio. Massimo Bologna, vai. Professor Cruciani, finalmente. No, ma non c'è nessun parlare. Professore qua, non c'è nessun no, professore. Professore sarai tu, forse. Tu sai tutto, hai io non so niente, esprimo le mie opinioni. Tu... hai tutta la scienza in mano. Io ti voglio dire che quel cristiano da dove non so ha telefonato, ha perfettamente ragione. Ma chi hanno telefonato 40 persone qua? Vabbè, Cristiano si è chiamato, Cristiano ha telefonato un quarto d'ora mi stai fa. Dicendo, ma che il prete che abbiamo ascoltato prima ha ragione? Ti sto dicendo che prima di fare una trasmissione bisogna informarsi, poi uno la può senti, vedere. Amico mio, adesso ti tiro l'iPad in fronte via etere. Come uno la può vedere da un lato da no lato. Non c'è nessun lato. Però da vedere il terremoto non si può vedere. Sodoma e Gomorra fu distrutta perché Sodoma e Gomorra erano due città piene di perversione. E allora? Questo è quello che racconta la teologia. E dunque? E poi dunque? Tu ci puoi credere o non credere. No, ma è dunque? E dunque? Il prete non ha detto una stronzata. Cioè tu credi davvero che noi saremo distrutti perché siamo pieni di peccatori? Io non ci credo. Ma io voglio sapere quello che credi tu a me, di quello che quello che pensa il prete, lo sappiamo già. Tu a che cosa credi? Hai paura, te la fai sotto, la pensi come il prete, la pensi come il prete, ma sei un caga sotto, la pensi come il prete, ma sei un caga sotto, tu sei un caga. Scusi, non ho capito. No. Passimo, la pensi come il prete, ma non hai il coraggio, non hai il coraggio. Ma informare su che? C'è scritto, se non sai le cose. Ma cosa me ne frega a me della teologia? Non sai le cose. Ma è chiaro che se uno prende la Bibbia e trova delle cose che può leggere alla lettera e le può interpretare così. Scusa, professore, cosa dice il pappagallo dietro lì? No, caro amico idiota, volevo dire soltanto con assoluto rispetto. Se no non avrei telefonato, se non volevo, esattamente, bravo. Già è conscio dei suoi limiti, bravo. Io dovrò telefonare, esattamente. Sono idiota. Allora, a questo proposito le dico che è evidente che se lei legge l'Antico / Nuovo Testamento alla lettera, troverà delle cose incredibili. Troverà ad esempio un signore che a un certo punto dice: fermati, o sole. Dice: oibò, ma il sole si è fermato davvero. Se uno legge la Bibbia, troverà ad esempio che gli egiziani sono morti nel Mar Rosso, risucchiati dal mare. Allora, mi sembra talmente evidente che una lettura di questo tipo della Bibbia sia fuorviante. Che se lei sta a quel dettato sono là d'accordo. Però non è una lezione di teologia questa qua, scusate, è una trasmissione radiofonica. Ha ragione tant'è il prete, sì o no, Massimo? Ma mai si sarebbe permesso di dire una cosa simile. Pure il Papa è l'interprete del Nuovo Testamento. Allora? Dal punto di vista teologico ha ragione. Sì, ma che cosa cazzo vuol dire i terremoti? Non dice niente, ma dal punto di vista teologico. Ma non è vero nemmeno questo, è una cazzata anche questa. Però il Papa dice una roba diversa. Allora il Vaticano si sbaglia. Io non mi permetto di dire questo. Vabbè, ma siete ipocriti, viaggiate sull'ipocrisia continua, è una vergogna. Siete ipocriti e caga sotto perché non avete il coraggio di pensare che siccome ci sono le lune civili, i froci, i peccatori, i film porno o chi più ne ha più ne metta, allora i terremoti arrivano per questo. Lo pensate e non avete il coraggio di dirlo, vergognatevi! Pubblicità. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presento La Zanzara. Caro Parenzo, qui la notizia drammatica non è tanto il Vaticano, Radio Maria, il terremoto, è che purtroppo sto cominciando a usare gli occhiali che non ci vedo più un cazzo. Roba. Aia. Mamma mia, guarda. Beh, sai, alla 60 anni capita. 60 però. Anni sta minchia. Scusami, 50. 50 anni, sì, lo so. La decadenza, poi perderai un pezzo d'orecchio, comincerai a avere i capelli bianchi. Capelli bianchi, qualcosa c'è. Cioè, il dramma vero è che ormai da vicino non vedo più una macchina. Sì. La roba, non lo devo dire a te che non ci vedi, diciamo, da tanti anni. No, io non ho occhiali, quindi vedo benissimo, ma per ora non ho segnali di decadenza, avendo 10 anni di meno. Beh, sì. Se Dio vuole. Sì. È un dramma assoluto, dai. Fabrizio Piacenza, vai Fabrizio. Il catetere te lo metteranno però. No, ma ancora no, il catetere no amico mio. Da 50 anni il catetere no. Purtroppo da vicino non ci vedo. Capita, per vedere adesso per esempio su Twitter, no? Sull'iPhone. Sto qua e vedo da vicino vedo poco, li riesco ancora a leggere. Metto gli occhiali ed è un altro mondo, vedo meravigliosamente bene, capito? Cioè è pazzesco. Beh vabbè, però insomma non è male, no? Gli occhiali anche esteticamente danno. No, è osceno, danno... no, ma io lo trovo osceno, trovo gli occhiali osceni. Molti dicono sì, è fascinoso, eccetera. Li trovo osceni, una cosa oscena, oscena. Fabrizio Piacenza, dai. Sì, ciao Cucciani, ciao. Poi raddrizza il banale col culo di Parenzo. Ma dove è nato? Fino a dove è stato? Sai che sembra Charlie Gnocchi dalla voce questa. Sì, raddrizza banale col sedere, te lo dico. Allora, abbiamo fatto questa cosa, allora. E perché abbiamo fatto striscia, allora? Vorrei sapere chi Chi non è andato in camporella? In camporella, allora? 34? Quando parlo io. Poi allora parla abbiamo quanti fatto anni ha, tu, aspetta, quanti caro anni hai? Giuseppe, allora? Sì, sono no, Charlie. Se, dico io. Cioè, non so, fino a ieri io non avevo i soldi, manco per far ballare le signe, la remunerazione. Ci voleva un nulla, ci voleva. E se andavi in camporella, se avevo il in camporella, e c'è la gnocchi questo, sì, lo dico io. Però scusa, andiamo. Andiamo al sol, andiamo al sol. Andato in camporella anche lui, no? Sì, sì, la d'accordo. Hai Radrizza, che vuol dire? Uno che lavora sulla piattaforma e sta via sei mesi e manco sa come è fatta la figa. Quando torna, deve scopare culatone che non sei altro. Hai capito bene o no? Questa è e buona. Questa verità, siccome bene o male potrebbe essere arrivato, non aveva fidanzata. Io non sto dicendo che aveva famiglia o meno. Io sto dicendo che uno che lavora sulla piattaforma in mezzo al mare. Ma che ne sai che era uno che abitava in una piattaforma? Scusa. Ma non lo so, io sto dicendo. Ah, dici così in generale. Lui quel lì dice delle cose che manco stanno in cielo. E allora? Ma questo qui dice quello lì era in mezzo al centro di Imola a fare centro di Imola? Appartato, no? Anche lui. D'accordo, è no? Charlie Gnocchi lei. No, però ha ragione, però ha ragione. Parla come Charlie Gnocchi. Ma dice di quelle fesserie che sembra che si sia messo in piazza Cavalli a Piacenza a scopare. Si sarà messo in camporella. Sono andati in camporella. Questi guardoni di merda sono andati a cercarlo. Sono per i coglioni, no? Sono andati là. Perché se no uno non si mette lì in mezzo alla strada, no? Come si accalora per questi temi? Più che per il sì e per il no. Un'altra domanda. Se io avessi 26 anni, potevo dire 22, potevo dire che era la mia fidanzata. Perché la Marchetta poteva avere 20 anni. Allora cos'è? Era la mia fidanzata. Era, si era appartato con la sua fidanzata. Non c'era nessuno che poteva negare che era una Marchetta. Punto no, e basta. Amico mio, mentre allora... tu sei una Trizza Banane, la vedi così. Sei un? Io non ho capito questa cosa. Perché Parenzo sarebbe un Radrizza Banane, scusami? Ma perché è l'ultimo brevetto che può inventare Parenzo e mettersi le banane nel culo e fare le diritte. Lui si mette le banane nel culo, è un brevetto nuovo. La banana è bella e diritta, è il brevetto nuovo. E anche, poverino, a suo modo, è anche colorato. È un business incredibile che ci riesce, eh? Poi ti metti una bella banana ed esce un bel diritto. E allora, te lo dico io, te lo dico io. Che io dico io, allora? Ma no, ma dico io, ma io, ma te lo dico scusa, io. Come si fa, Radrizza, come si fa? Perché è un domani. Sì, ma ti devi fermare un attimo, fermati un attimo, Fabrizio, che sei un fiume in piena. Allora, come si fa tecnicamente? Parenzo, stai fermo con quei fogli, se non mi incazzo. Come... Mi sto guardando il giornale. Beh, no, ma capito, il giornale devo sentire alle 9 di sera, alle 9 di sera basta, no, guarda il giornale, finita, no? Un articolo di Antonello Caporale, dai, che tu, si chiama smettila, dai. Terremoto, beh, per forza, meglio Caporale di questi. Sono vivo, sono cacci da cagare, ragazzo mio. Allora, io, Fabrizio, scusami un attimo. Allora, come si fa col culo a raddrizzare le banane? Perché questa è curiosa. Infatti, lui è la cavia da usare. L'unica cavia da usare in questi casi estremi è Parenzo. Perché è un paraculo in tutte le maniere. Vede sempre, cioè quelle dicotomie. Lui c'è sempre in mezzo, ha sempre ragione. Ma come fai ad avere ragione su una situazione di quel genere lì? Stando lui, era in piazza. Ma tu vai a puttana ogni tanto? Sicuro. Hai voglia. Vedi. Quanto spendi in puttana? Ma che male scelto, no, hai voglia? Non spendo tanto, no, non spendo tanto. Quanto spendo spendi? Tanto. Ma dove vai? Internet, telefono? Ma tanto, è normale che normale. Io mi ritrovo anche una lira in tasca, posso andare anche in albergo. Sì, ma come vai? Dove? Per strada? Telefono? No, giornali? No, trovi, no, me le basta leggere sul giornale. Ah, cercati di andare, che trovi di tutto. Quello è l'ultimo problema al giorno d'oggi. Cioè, per stare un po' squalida la cosa. Ma io capisco anche il fatto. Ma come mai? Sei sposato? Sì, certo. Beh, ci mancherebbe altro, ovvio. Ma scusa, vabbè, ma se tua moglie sta ascoltando, scusa, spiegami. Ma non ci vedo niente di male, cioè io sono in giro dalla mattina alla sera. Vediamo chi raddrizza le banane stasera quando torni a casa. Ma non questo sta lo vediamo. No, no, no. Cioè, tranquillo che il ragazzo mio c'è un braccettino come terza gamba che sono chiesti da cagare, te lo dico. No, ma no, vediamo, scusa, tua moglie ascolta la radio, no, lo sa che vai a puttane o no? Ma non lo so, ma non è che mi preoccupo più di quel tanto, intendo dire. Io faccio. Sarà felicissima, bella famigliola. Sarà felicissima, sicuro. Sarà felice. Scusa, non lo so. Penso a te, penso di essere felice la tua. Perché un domani, ammesso e concesso il fatto del tutto rispetto del mondo, io ti posso. Ma avendo una figlia, è facile che si falli in camporella anche lei. Che ci arrivasse 25 euro di multa a tua figlia e al suo ragazzo. Questo è vero, questo è vero. Per rimanere un po'. Al di là del fatto che Imola fosse una prostituta, eccetera, cioè 10.000 euro di multa l'hanno prese per com'era il reato, Parenzo, tu che sei così attento ai reati? Il reato è atti oscene in un luogo pubblico. Benissimo. Allora, che è un reato uno dei assurdo reati. Poi che ci può è stato depenalizzato. Lo sfruttamento della prostituzione, ma quello non, evidentemente allora, non glielo possono aver dato perché non era il magnaccio. Questi stavano scopando dentro la macchina, una cosa che gli italiani fanno dagli anni, da quando esiste l'autovettura in Italia. Allora, io dico una cosa, magari non conosciamo alcuni dettagli, alcuni particolari. Mi sembra una follia di questa nuova ondata moralista per cui i comuni devono fare i soldi, oltre che con gli autovelox e con le multe, anche, anche con chi va legittimamente a mignotte, come questo signore che ci ha chiamato, che si chiama Fabrizio da Piacenza. Fabrizio da Piacenza, giusto Fabrizio? Torna a casa il quale è un rappresentante. Quanto mi piacerebbe sentirlo. E ogni sentirlo, tanto guarda, ha bisogno di sfogarsi e di trombare, giusto Fabrizio? Trovare la moglie col mestolo in mano stasera, che meraviglia, che sarebbe. Boom, sulla testa glielo dà. Questo spiritosone qua, sto maiale qua. Scusami Fabrizio, qua, Fabrizio, ma con qua. Tua moglie ovviamente non scopi più. No, come non hai voglia, ragazzo mio. Cioè io rimango in giro tutte le settimane, quando torno devo trombare. È quello che non capisco in quella raddrizza banale io, che non capisco, che non riesco a quantificare. I ragazzi una volta era meravigliosamente bello, noi avevamo la strada dei Morosi qua a Piacenza, yeah, e tutti ci portavamo la libertà, il quotidiano piacentino, perché la cacciavamo col puff, l'umidità interna, perché c'era talmente tanta foglia e respirare tutto il resto. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Interna, la macchina poteva il puff, l'umidità, e si attaccavamo i giornali per farsi sentire guardolci. Oh, ma ho capito, ma tu chi preferisci, diciamo, le cose? Chi preferisci come prostituta? Hai delle preferenze? Che ne so? No. Trans ti piace? Non mi piacciono le nere. E i trans? Ma no, non ho quelle, non ho niente contro di loro, ma c'è russe? Russe? La figa di per sé. Ti piace la figa di perché le nere puzzano. E allora, le nere puzzano, amico mio, ma che vuol dire le nere puzzano? Pure detto cimenti come Gio Formaggio, le nere puzzano, dai, su. Beh, insomma, no. Non ti piace, anche tu sei un po' razzista, sei un puttaniere razzista. Se tu avessi scopato nei denti uno con i capelli rossi, è un odore completamente diverso da quelli che sono con altro tipo di colore di capelli, non è colpa loro. Non sto mica stai dicendo che le rosse hanno un odore diverso sessuale? Per basso. Lo si dice se la rossa lo dicessi in diretta. Lo si dice sempre, sì, va però. No, lo si dice. Io però dai, professore emerito. Ah sì, ma anch'io sono un po' professore da questo punto di vista, però mezzo professore. Adesso parliamo la stessa lingua. No, però amico mio, questa cosa è un po' una leggenda sulle rosse. Ripeto. Vabbè, comunque stiamo diventando amiconi, Parezzo, stiamo diventando amiconi. Si capisce, avete un terreno comune di Fabrizio, ciao. Franco Milano, vai. Franco Milano, vai Franco. Dimmi Franco. Allora, io vorrei sapere una cosa, posso farvi una domanda? Ma chi è più coglione, il vegano che non mangia il prosciutto crudo o un ebreo che lo rifiuta il patta negra? Chi è il più coglione? Tu forse sei un coglione. Potresti essere tu il più coglione tra i due. C'è anche la terza opzione. Cioè, tu dici chi è più coglione? Un vegano che non mangia il prosciutto o un ebreo che lo rifiuta? Oppure Franco da Milano che è un coglione? Di per te. No, io direi Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo che siete due coglioni. Ma scusa, perché questa domanda hai fatto? Spiego subito. Spiegati. Lo difendi sempre quando c'è la telefonata contro Davide Parenzo. No. Il carabiniere buono e il carabiniere cattivo. E lo difendi quando arriva la telefonata contro Parenzo. Ma io vorrei sapere, avete rotto i coglioni con quel prete che ha detto una cagata mostruosa e quel pirla lì che non mangia il prosciutto e fa il digiuno nei tre giorni? Lei che gliene frega dei tre giorni? Lei che gliene frega? Cioè cambia la sua vita di quello che faccio io, no? Sono intelligente, ma che cazzo? Ma fatto che lei sia intelligente o ascoltandola dei seri dubbi. Però, per carità, per fortuna le nostre strade non si incontreranno mai, quindi vado a quel paese, arrivederci, grazie. Però scusa, lui sta dicendo una cosa, sta dicendo che uno non può credere. Anch'io sta non credo, però non è che dico, non è che dico che cazzo stai a digiuno. Per me, pure per me, sono delle cose incomprensibili, però perché non credo, semplicemente per... se uno ci crede, oh ragazzi, che bisogna fare? Cioè, non è che fa del male a qualcuno facendo il no, il digiuno, quello che e chi ci sta dicendo che fa del male? Ma siccome lui quando c'è qualcosa di strano sui cattolici, sui cristiani, lui dice: "Ah, io sono di un'altra parrocchia". Appunto. Perché la tua parrocchia è diversa. Ma non commento le scelte degli altri, francamente, ognuno fa quello che gli pare. Ma anche più coglione della nostra! Vabbè, Franco, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E intanto, caro David, prosegue il nostro viaggio ad Albettone, provincia di Vicenza, alla ricerca degli elettori di Gio Formaggio. Veramente gli abitanti di Albettone la pensano come il loro sindaco? Pronto? Sì, buongiorno, io sono dell'associazione Forza Immigrati. Mi scusi signore, ma lei non prova vergogna per ciò che ha detto e fatto il vostro sindaco Gio Formaggio? Ha detto che è orgogliosamente razzista. No, non provo vergogna. Lei non prova vergogna? No. E ha detto che da voi i negri rischiano la pelle? Sì. E lei è d'accordo? Sì. E piuttosto che dare a loro le case le riempirebbe di letame? E lei è d'accordo anche su questo? Sì. Pronto? Sì, buongiorno, io sono dell'associazione Forza Immigrati. Signora, mi scusi, ma lei non prova vergogna per ciò che dice e fa il vostro sindaco Gio Formaggio? Ma che culo! Cosa che è? Non si sbatte il telefono così in faccia, maleducatamente! Perché viene fuori a condicchi i discorsi proprio del cavolo! Pronto? Signora, mi scusi, ad Albettone non provate vergogna per ciò che dice e fa il vostro sindaco Gio Formaggio? No, che non sono d'accordo! Ecco, ma mi interessava sentire se in città... No, le ho detto che ieri che è passato di qua, che si è fermato con me, no, perché è amico di mio figlio. E cosa ha detto? E ho detto che viene a prenderlo fra qualche giorno, perché ne ha tanti contro di lui, insomma, parla male. E ha anche detto che se piuttosto che dargli una casa agli immigrati, metti dentro palate de merda de sterco. Sì, è capace di tutto, dire di tutto. Pronto? Ma ad Albettone non provate vergogna per come il vostro sindaco tratta i poveri immigrati? Non può chiamare e insultare le persone al telefono. Io no, ma chi insulta signora? Io non insulto, io le chiedevo. Dal sindaco e dillo al sindaco queste cose. Oh, sicuro? Ma io voglio capire se il sindaco parla a vostro... Ah, non lo so, non lo conosco neanche io il sindaco, mi scusi. Se parla al vostro nome, perché non può... Ma se non lo conosco neanche, lei parla, vada dal sindaco e gli dice quello che pensa. Ah, di sicuro signora, ma voglio prima sapere cosa dicono i cittadini. Benissimo. Quante parole. Cruciani, sei un fottuto epicureo senza Dio. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Pneumatici invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. La Zanzara. I've been driving on that man's wet on the wheel. Cruciani, sono Alessandro. Sono di Torino, faccio il ricottaro. Sia chiaro che io ti ascolto, ma ti odio profondamente, Caino, hai capito? A te e a quell'altro lì che c'hai a fianco, Parenzos. Vi odio, maledetti. E ancora una volta il peggio di Radio Padania. Anzi no, servi di Roma fuori, Radio Calabria. Senza dubbi neri pensamenti. Calabria bella e viva, mangianduia. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. Abbiamo comprato Radio Padania. Padania bella e libera. E adesso comandiamo noi calabresi. Ve l'abbiamo messa in quel posto? Guarda oltre i monti, non permettere al tiranno di accecarti. Voi che ci chiamavate terroni, fai vedere le tue braccia possenti a chi ti vuol fermare. Sali Padania, vai con l'ascoltatore sul terremoto, vai! È bella la tua terra, e Nabucco salirà alto nel cielo. Grazie a Dio la giustizia divina trionfa sempre. Noi uomini polvere siamo e polvere diventeremo, quindi abbassiamo le ali. Questo ha detto Padre Livio. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Perché anche il diluvio universale è stato un cattivo. Allora non potrebbe essere un cattivo anche ora, con tutte queste stifette di matrimoni, di vie lesbiche, gay, eccetera, eccetera. Senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Padre Livio dice quello che ha detto, dice che è un castigo per il matrimonio dei Finocchi, dai, io li chiamo Finocchi. Io li chiamo Finocchi. Come una madre e un figlio. Non ho mai più comprato Findus, da quando invece Findus si è dichiarata favorevolissima ai Finocchi. Impariamo dai Finocchi che hanno sabotato Barilla costringendolo a ritrattare le proprie convinzioni e le proprie affermazioni. Tutto per la libertà. Forza Calabria! Servi di Roma fuori. Una volta c'era in giro in Lombardia un culmuturin che andava a castrare i maiali. E dato che più o meno il valore di queste persone, io manderei il castratore, quello che amputa le credenziali, e poi gli farei anche mangiare, perché non si può rovinare uno Stato così, non si può arrivare a... Oggi vivi come un deficiente, o sei gay o sei un cretino. Lo dice lui, o sei gay o sei cretino. Questo signore qua che dice che vorrebbe castrare la gente, certa gente, cioè gli omosessuali, come i maiali. Il medico in famiglia va chiuso, sai la trasmissione, no? Perché c'è stato un bacio gay, senti. Se non si può far nulla per far chiudere quella trasmissione, il medico in famiglia, in cui addirittura la settimana scorsa abbiamo visto il bacio gay alle 10.10. Beh, una cosa gravissima. Mentre stavo cucinando la polenta taragna, ho visto due uomini che si baciavano. Ma abbiamo con noi uno che la pensa come Radio Maria, anzi come quello speaker di Radio Maria. Il suo nome è Maurizio Francesco. No, sì, Francesco, Davide, che cazzo devo dire? Chi è Francesco? Padre Francesco? Non lo so, guarda. San Francesco. Non lo so. Il suo nome è Maurizio, il suo cognome è Ruggero del Sacrum Imperium. Mancava. Maurizio, buonasera. Come stai? Bene, bene. Voi altri come state? Malvissuti come al solito? Beh, insomma, malvissuti. Inox signo vinces. Ma infatti... E non parliamo però della croce, ma parliamo della radio. Il nostro collaboratore che ha fatto... Il vostro collaboratore, con un senso comico innato, devo dire, mi ha detto che oggi voi vi siete riuniti e avete ponderato su quelli che potrebbero essere i significati dei terremoti, dei castighi divini, eccetera. Incredibile. Questo l'ha detto, cioè, l'ha detto Riccardo Poli, che è di Verona, che voi siete come te. Così pensosi delle sorti umane, così pensosi delle anime, veramente mi conforta, vuol dire che tutto è possibile. Se persino delle bestie come voi si interrogano sul fatto che esistono come esistono i castighi divini, vuol dire veramente che un passo avanti. Ecco, no, andiamo al sodo. Esistono i castighi divini. Mi metto comodo qua perché l'affare si fa interessante. Beh, no, vabbè, mettiti comodo. Allora, vogliamo ricapitolare la cosa. Allora, Maurizio Ruggero è il fondatore di un'associazione. Parenzo mi ha mandato recentemente delle foto di un signore che si è messo in maschera, credo. Sì, no? Bizzarrie che hanno fatto di elezioni, non ho capito di che cosa. No, di... vabbè, abbiamo fatto la rievocazione del plebiscito truffa del 1866, quando il Veneto fu annesso in maniera truffaldina e intimidatoria all'Italia, come avvenne anche nelle altre regioni. E voi avete fatto un nuovo referendum? Sì, che al 92,58% ha decretato il no, ovviamente. Cioè, nel senso, no a che cosa? Ma quanti eravate a votare? Il no all'Italia Unita. Ma è interessante. Quanti eravate a votare? 30? No, quanti hanno votato? Quasi un migliaio di persone sono venute. Ah, interessante. Quindi, mille disturbati, mille disturbati, hanno passato la domenica a votare a Verona contro l'annessione del Veneto all'Italia. Ho capito bene? Allora, Parenzo, tu sei Veneto, ancorché giudeo, saresti Veneto. Ho capito bene. Dovresti sapere che è uscito l'articolo del Corriere della Sera. Indignato, perché in tutto il Veneto non si celebravano le cosiddette glorie della, della unificazione, dell'annessione forzata del Veneto. Anzi, facevano le contromanifestazioni. Posso dirti una cosa, scusa, ma posso dirti una cosa, amico mio Ruggero? Sì, io credo che al 99,9% degli abitanti del Veneto non gliene sbatte una mazza. Sì, ma per questo che sei romano non capisci niente. Ma è chiaro che non gliene frega nulla. Non capisci niente, perché invece al 99,9% sì, vorrebbero staccarsi dal sanno benissimo che tutti i guai del Veneto, ma non solo, ma anche tu hai il passaporto oggi, derivano dal fatto che c'è stata la mala unità risorgimentale massonica. Benissimo, anche tu hai, anche tu hai il passaporto veneto, non quello italiano, anche tu non riconosci lo stato italiano. Anche no, ho il passaporto, diciamo, in generale io non ce l'ho, però ho quello veneto, certo, quello italiano non ce l'hai, hai quello veneto. Quello italiano non ce l'ho, ma ho quello veneto. Come cazzo, me l'ha dato, se vai in America, ma non vai, ma dove non funziona, non è valido. No, ma cosa vuol dire? Cioè, il problema del valido o non valido? Ma se vai in America ti sputano in faccia, comunque ti arrestano, ti arrestano direttamente. Ho capito, ma se tu vieni nel Veneto, dici le cose che hai appena detto adesso, ti sputano in faccia anche a te. Allora, cos'è il problema vero? Però andiamo adesso. Dicono, questo qui è il solito servo di regime, ma in questo caso nessun... dato da Confindustria per fare gli applausi al regime, ma che c'entra qua... che c'opprime da 150 anni e non ne possiamo più. Okay. Ruggero, oltre ad essere un super cattolico, eccetera, eccetera, è anche un indipendentista veneto, cioè c'hai due cose in una, sono anche in una sola persona. Veneto, e sono anche un tradizionista cattolico che non deve confondersi però con Radio Maria, il che castigo è un divino di conservatori. Pure, il tu sei oltre Radio Maria, il castigo divino. Dunque, esiste il castigo divino, giusto? Dunque, allora, il fatto che esista Parenzo è una prova del castigo divino, intanto. Vabbè, è dato assolutamente evidente, no? Ma al di là di questi aspetti, c'è una battuta. Leggo oggi una nota di Becciu, cristianizzatissimo esponente della nuova gerarchia conciliare Vaticano II. Vabbè, adesso non andiamo fuori, no? Allora? No, andiamo sì, invece. Cioè, perché come si deve vedere le cause della mala unità ad oggi? Si devono vedere le cause della voglio capire una cosa da te. Il terremoto può essere considerato una punizione di Dio? Tutto il giorno pensa allora, questa roba qua. Tutto ciò che avviene avviene o perché Dio lo vuole o perché lo permette. Risposta: sì. Sì. Dunque, il terremoto è una punizione anche per le porcherie che fa l'uomo. No, soprattutto per le porcherie che fa l'uomo, fanno gli uomini. Cioè, in questo caso, le unioni sodomitiche, Per esempio, le unioni sodomitiche, per esempio, il viaggio dell'amico Bergoglio a Lund in Svezia, in cui è andato a fare l'elogio del più infame riformatore, lo chiama lui, luterano, eretico, in realtà, dell'umanità. Cioè, tu, secondo te, dunque, Bergoglio va, no, per capire, Bergoglio va dai luterani e Dio si incazza e e fa tremare la terra in Umbria, giusto? Non solo in Umbria, perché non sappiamo, cioè, in sì o no, rispondimi sì o no. Sì, sì, certo, cioè, ci sono tutto questo insieme di cose, i peccati degli uomini. Le nozze sodomitiche volute dal Gaglioffo di Firenze. Infatti io quando l'ho viste ho detto adesso gli arriverà il castigo. E infatti poi è solo questione di tempo. Poi tutti i terremoti, sono arrivati i terremoti subito dopo. Su tutti no, ma arriverà anche il suo spodestamento politico, anche quello. Sì, ma lascia perdere, quello non è un terremoto. Quello però, quello... Avrà naturalmente la paga. Ma e perché vengono colpite le chiese? Ruggero, spiegami. Allora, cosa dice? È interessante. Cosa dice la sacra? Perché c'è la crisi della Chiesa. Cioè, il primo che viene colpito è proprio l'ambito ecclesiale. Perché capisco. Tradimento sovrano in questo momento. Cioè, perché Bergoglio... È la parte della gerarchia. Questa gente ha cambiato la religione. Dunque, la terra trema, la terra trema e le chiese cadono perché c'è Bergoglio. Perché c'è Bergoglio, perché sono i Vaticano secondisti e la gente pia. Avete visto la fotografia? Ma perché noi stiamo ancora qua? Perché la fotografia di Norcia qua? Siccome fate, mi date l'ascolto, siccome fate un neurone in due. Io sinceramente penso questo. La fotografia dei Nursini, si chiamano Nursini gli abitanti di Norcia, lo dico a beneficio vostro. Ma chi se ne frega? Allora? Avete visto, dico, la fotografia di... Non te ne frega niente anche dei Nursini. Vabbè, comunque, dice, avete visto la fotografia dei Nursini in ginocchio davanti alla chiesa di San Benedetto di cui rimaneva la sola faccia? Allora? Ecco, queste persone hanno capito che c'era stato un castigo, che il Padre Eterno non ne può più della cristianizzazione dell'Italia, dell'apostasia dei Vaticani. Ma cosa c'entra i terremoti, Ruggero? Cosa c'entrano i terremoti? Cosa, con Lutero? Col porto della Sassonia? Ma tu hai idea di chi era Lutero? Ma cosa c'entrano i terremoti, Lutero, il Papa, però. Bergoglio? Perché? Le unioni omosessuali, che c'entrano? Che c'entra la Cirinnà? Che c'entra la Cirinnà? Allora, la colpa è della Cirinnà. Allora, Crucioni, dei terremoti. Cruciani, dillo sinceramente. Crocioni, ascolta. No, Frocioni, chiamami anche Frocioni. Ruggero, dimmi una cosa. No, ma me lo devi dire chiaramente. La Cirinnà, Monica Cirinnà è la causa del terremoto di Norcia. Non solo la Monica Cirinnà, tutti quelli che hanno voluto le nozze sodomitiche, a cominciare dai due compari con cui sto parlando adesso, che gli elogiano tutti. Anche noi, siamo. Certo, voi siete nel mazzo, non c'è dubbio. Tutti quelli che l'hanno voluto, no, hanno tutti questa responsabilità. Stiamo parlando con un signore, che non ha mai scoperto uno. Penso che quando una persona ha troppo tempo libero, io penso che Parenzo dovrebbe meditare sui castighi dei giudei. Gerusalemme è stata distrutta proprio per i suoi peccati. Un signore che ha passato i suoi ultimi vent'anni di vita, anziché a trovarsi un lavoro dignitoso, che può essere qualunque lavoro, e da vent'anni sta lì da solo a casa a pensare a queste cose qua, il risultato è questo. Il risultato è che voi continuate a schizzinizzare la gente, ma ormai lei la gente comincia a aprire da vent'anni si è mai trovato una fidanzata, un lavoro serio, una casa, un salario. Certamente non sarebbe Parenzo a trovarmela, ma sarebbe in vent'anni di attività perché non si trova un lavoro serio, un lavoro, ma anche un lavoro qualunque, un lavoro. Ma perché voi giornalisti sareste un lavoro serio? Cioè voi che siete una categoria che è meglio fare il giornalista, ma siccome lei non lavora, da chi riceve i soldi per vivere? Ruggero, questo è interessante. Hai scopato nel frattempo, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, hai scopato o sei sempre vergine? Sei sempre vergine? Ho cercato di rispettare, come sempre, i 10 comandamenti. Ma sei vergine? Sei ancora vergine? Fintanto che io non ho una moglie, non vado con signorine. Dunque sei vergine? Ancora sei vergine? Il sottoscritto mantiene la linea, che è quella appunto dei 10 comandamenti, che voi invece... D'accordo, dunque sei vergine? Io sono uno che rispetti i 10 comandamenti. E dunque sei vergine? Ma dovete farlo anche voi? Non lo fa nessuno. Ma sei vergine o no? Sei vergine o no? Io sono uno che rispetta i 10 comandamenti. Le pugnette te le fai o no? Punto. Le pugnette te le fai o no? Lasciamo perdere, non entriamo in questa roba qua, perché se continuate ad essere così volgari mi tocca mettervi giù. Non credo che dopo. No, ma le pugnette, la dispersione del seme, ma è possibile? Non si parla. Allora, voi non fate i confessori, voi siete due maiali. L'unica cosa. Adesso arriva il terremoto su Radio 24. Terremoto qui a Via Monterosa. L'unica cosa che bisogna guardarsi è da voi, confessori. Ma dai, quelli come voi, Dio le scampi. Ciao, Maurizio. Ciao. Dove siamo qua, ragazzi? Ma roba incredibile. Cristina D'Ascoli, l'ultima telefonata voglio prendere. Cristina D'Ascoli. Sì, buonasera. Io vi seguo sempre, insomma. Sì. Però certe volte certi ascoltatori pure, talprete. Cristina, che mi devi dire? Dimmi, che mi devi dire? Io volevo dare ragione a Parenzo. Ma su che? Meno male. Su che cosa? No, a parte che è educato come persona e mi piace molto. Ma su molto... che cosa gli vuoi dare ragione? Non ho capito. Grazie, meno male. Che hanno preso la multa. Ma perché tu non sei mai andato a scopare in macchina? No, aspetta un attimo. Hai scopato in macchina qualche volta o no? Sì, ma ero un mio fidanzato. Invece è andata mignotta, qual è il problema? Non ho capito, ne parliamo lunedì, amica mia, non c'è più tempo. Ciao ragazzi, a lunedì, ciao. Zanzarosi, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.